mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Mari di sogni nell'alba svaniscono perché, quando tramonta la luna, li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Bene, bene, bene. Dicevo che da questo momento in poi, cioè da quando Domenico Modugno sale sul palcoscenico del Festival di Sanremo negli anni 50, la canzone italiana non è più la stessa, e cioè si ha una svolta epocale. Non è esagerato, non è assolutamente esagerato usare questo termine, perché comunque, per quanto riguarda appunto il movimento musicale italiano, la storia musicale italiana, nel blu dipinto di blu, questo è il titolo originale che noi conosciamo molto di più come Volare, è proprio una canzone di rottura, non solo sotto il profilo testuale, perché comunque racconta di un sogno, ed è vero, perché poi uno dei parolieri, tra cui Pazzaglia, il famoso Pazzaglia, ricorda di questo sogno e che poi si tramuta in canzone. Dicevo che non solo sotto il profilo testuale, ma anche sotto il profilo comportamentale, anche sì, anche in questo senso, come Elvis Presley ad esempio in America rappresentò una svolta anche sotto questo nel modo di interpretare il pezzo, quelle mani alzate, quelle braccia alzate di Domenico Modugno nella sua prima interpretazione di Nel blu dipinto di blu a Sanremo fecero un po' la storia, cioè cambiarono il modo di stare sul palcoscenico, cambiarono anche il modo di interpretare una canzone, e naturalmente poi il tutto era anche insito nel testo e nella musica di questo brano, perché non si parlava più di storie, melenze d'amore o altre cose così, o comunque diciamo si rompevano gli schemi, così come rompeva gli schemi questo bravissimo autore di cui parleremo fra qualche secondo, dopo aver ascoltato uno dei suoi pezzi più famosi e credo uno dei suoi pezzi più belli. Stiamo parlando di Umberto Bindi e Il nostro concerto. Ovunque sei, ovunque stata definita la rapsodia in blu italiana, questo pezzo di Bindi, e in effetti lo è. Parlavamo di rottura di schemi, ma qualcuno potrebbe obiettare, a livello musicale, sonoro, questo brano non è proprio, come dire, di rottura, ma in effetti è stata un po' tutta l'esistenza, la vita di Bindi a essere in qualche modo controcorrente. È stato uno dei primi autori che poi naturalmente ha scritto per tutti i cantanti e i nostri musicisti, i nostri cantanti, per il pop italiano, ma per molto tempo è rimasto lontano dalle scene perché comunque è omosessuale, è dichiaratamente omosessuale, ed è qui anche in qualche modo la novità di quanto la novità stava appunto nella sua esistenza, nella sua vita, e anche nel suo non nascondersi, anche se per molto tempo è stato costretto a farlo. Andiamo un po' velocemente, perché stiamo parlando degli anni 60 in qualche misura, forse i prodromi di questa nuova ondata musicale sono cresciuti proprio in questo periodo, anche se poi faremo un piccolo passo indietro come gamberi, vi farò anche ascoltare cosa c'era prima di queste scuole musicali. E la scuola musicale o cantautorale, usiamo questo termine, ormai ci stiamo, lo si fa da tanto tempo. Dicevo, la scena musicale cantautorale di quel periodo era riempita dalla cosiddetta scuola genovese, di cui questo signore è stato uno dei fondatori, e adesso lo ascolteremo con questo bellissimo brano. Già dalle prime note potete capire di chi parlo e di che cosa sto parlando. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui, abbandonati come se non ci fosse più niente, più niente al mondo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te, per me, su nell'immensità del cielo. Sembra un organo che vibra per te, per me, su nell'immensità del cielo, per te e per me, nel cielo. Questa era la celeberrima canzone di Paoli, e cioè Il cielo in una stanza. È anche superfluo presentarlo, queste cose, credo, perché fanno parte ormai della nostra storia musicale, per qualcuno anche della propria storia personale, perché hanno accompagnato un po' come si suol dire, come colonna sonora, bei pezzi delle vite, ma soprattutto dei più, diciamo, stagionati, ecco, mettiamola così. E niente, mi dicono che devo ricordare ancora una volta la nostra radio, e io lo faccio con molto piacere. Questa è una radio web che porta il nome di Radio Cerrano, ma questa sera siamo collegati anche con un'altra emittente, sempre internettiana, online, che è Radio Atri Web. Abbiamo fatto questo connubio. D'altra parte, noi trasmettiamo da questa zona, e quindi, insomma, ci sembra giusto ricordarlo. Così come vorrei salutare dei nostri amici che sono all'ascolto, l'abbiamo fatto prima con una piccola diretta, salutando un nostro mentore che è Fabiano, e poi io saluto con grossissimo affetto una mia carissima amica che è Lisa, che ci sta ascoltando da un altro paese, quindi sperando di fare cosa gradita, come si suol dire in questi casi. E dicevo, Gino Paoli, la scuola genovese che comincia a farsi largo nel panorama musicale cantautorale italiano, e lo fa con, insomma, credo che il trucco è la rottura, il punto di rottura del cantautore, dei cantautori o di questi musicisti sia stato proprio quello di prediligere in qualche modo più la parola rispetto alla musica. Poi le cose si sono evolute, lo vedremo più in là, e quindi il testo che prende maggiore rilevanza, il testo che non sempre aulico come lo era stato fino a qualche anno prima, ma un semplice testo banale, a volte, ecco, banale, Il cielo in una stanza è parla appunto di una storia banalissima di una persona, dell'innamoramento o di altro, lo fa mettendo in rilievo le storie semplici di ognuno di noi, e quindi in questo senso il cantautore o l'embrione del cantautore era in qualche modo rivoluzionario. Però, vi dicevo, prima di tutto ciò, i musicisti che tentarono la prima rottura furono quelli che si rifacevano un po' ai canzoniere o alla chansonniere, anche francese, come accennavo prima, o anche a vecchi cantastorie in qualche modo, e i primi a mettere l'accento più sul testo che sulla musica furono questi signori qui, e quando dico questi signori qui, insomma, sto parlando di Pietro Buttarelli e, pensate un po', Italo Calvino. Abbiamo estratto una cosa veramente rara che adesso vi facciamo ascoltare. Un giorno nel mondo finita fu l'ultima guerra, il cupo cannone si tacque e più non sparò, e privo del tristo suo cibo dall'arida terra, un branco di neri avvoltoi si levò. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò dal fiume, ed il fiume disse no, avvoltoio vola via, nella limpida corrente, ora scendo un carpetrote, non più i corpi dei soldati che la fanno insanguinar. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò ai tedeschi, e i tedeschi disse no, avvoltoio vola via, non vogliamo mangiar più fango, odio e piombo nelle guerre, pane e case in terra altrui, non vogliamo più rubar. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò alla madre, e la madre disse no, avvoltoio vola via, avvoltoio vola via, i miei figli li do solo a una bella fidanzata che li porti nel suo letto, non li mando più ammazzar. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò all'uranio e l'uranio disse no, avvoltoio vola via, avvoltoio vola via. Siamo nell'aprile del 1957 a Torino precisamente, e in quei giorni di primavera Sergio Liberovici, un musicologo e un ex partigiano, insieme a Fausto Amodei, un musicista cantante, cominciarono a studiare e a ricercare soprattutto canti popolari che erano un po' sfuggiti all'attenzione dei più, e quindi poi si tentò anche una produzione originale. E tutto questo diventò una raccolta che voleva essere, e in effetti poi lo è stata, una raccolta scientifica, denominata Cantacronache 2. E queste cantacronache e nel pezzo che avete ascoltato, e cioè Dove vola l'avvoltoio, un pezzo originale, appunto, una produzione originale di Pietro Buttarelli e Italo Calvino, quindi stiamo parlando di uno dei massimi autori letterati italiani, che si dedicarono anche a questo tipo di produzione. Stiamo parlando quindi proprio dei prodromi degli inizi di questa nuova ondata musicale, di una ondata musicale che, come vi dicevo, è stata caratterizzata dalla ricerca, soprattutto dalla ricerca di nuovi linguaggi, di nuovi modi di comunicare, di nuovi modi di fare musica che prediligessero in qualche modo la parola, il testo, la poesia, ed è stato così per moltissimo tempo, cioè dagli anni 50, 60 per arrivare fino agli anni 70. Io credo che sono sicuro che solo alla fine degli anni 70 e solo attraverso alcuni cantautori poi c'è stata una svolta che ha tentato di mettere insieme testo e musica nel migliore dei modi. E soprattutto negli anni 70, ad esempio, il cantautorato italiano era poi connotato da una serie di venature politiche che hanno influito tantissimo, ma d'altra parte non poteva essere altrimenti, perché in quel periodo, dal 68 al 76-77, il nostro paese era attraversato da pulsioni politiche importanti, anche se c'era qualcuno che tentava una via un po' più intimista, come si suol dire. Stasera sono qui, è perché ti voglio bene, è perché tu hai bisogno di me, anche se non lo sai. Se stasera sono qui, è perché so perdonare e non voglio gettar via così il mio amore per te. Per me venire qui è stato come scalare la montagna più alta del mondo, e ora che son qui voglio dimenticare i ricordi più tristi giù in fondo. Se stasera sono qui, è perché ti voglio bene. è perché tu hai bisogno di me, anche se non lo sai. Stasera sono qui, è perché ti voglio bene, è perché tu hai bisogno di me, anche se non lo sai. Era un Luigi Tenco dannata, era, stiamo parlando del 1967 con Se stasera sono qui, è un po' adesso la storia di Luigi Tenco, la conoscete tutti, la conosciamo tutti, no? Questo cantautore, come dicevo prima, molto intimista, che poi ha tragicamente messo fine alla propria vita proprio al Festival di Sanremo, fu un grossissimo shock per tutto il movimento musicale italiano, e stiamo parlando appunto di quei periodi in cui la musica italiana stava cambiando pelle, stava trovando anche con fatica una sua strada che non fosse quella della canzone melodica e basta, ma che appunto determinati autori poi cercarono di spostare, e tra questi i cosiddetti cantautori, verso nuovi confini, si direbbe adesso nuove strategie. Io però prima di andare avanti credo sia d'obbligo ricordare la figura di un enorme musicista, cioè scomparso ieri, cioè Luis Bacalov, un musicista argentino che però dal 1957 risiedeva in Italia. Veramente un grande della musica, ma non solo perché con il Postino, il film Il Postino ha ricevuto il premio Oscar per le musiche, ma perché comunque per la musica italiana ha rappresentato veramente una colonna. Lo ricordiamo in tantissime produzioni e in tantissime anche composizioni, ne ricordo una per tutti, appunto quella del Concerto Grosso dei New Trolls. Lui è stato il deus ex machina di tutta la produzione anche di un pop italiano di qualità, e poi naturalmente si è spostato sulle musiche da film, sulle composizioni. Io devo dire che qui abbiamo avuto la fortuna, quando parlo di qui, parlo della nostra città, abbiamo avuto la fortuna di ospitarlo, e io ho avuto la fortuna di conoscerlo, un grandissimo artista che è venuto a registrare una messa che aveva scritto lui insieme a dei musicisti locali. È stata un'intera giornata, io ero lì, una giornata veramente indimenticabile per tutti noi, ma perché si è di fronte a un grosso genio della musica, ma a un genio umile, un genio veramente affabile, veramente un grande uomo. Io ci tenevo stasera a ricordarlo e a ricordare anche la fortuna che ho avuto nell'incontrarlo in quella occasione splendida qui proprio nella nostra cittadina. Era d'estate e tu eri con me, era d'estate poco tempo fa, ora per ora noi vivevamo Sono giorni e notti felici senza domani. Era d'autunno e tu eri con me. Era d'autunno poco tempo fa. Ora per ora, senza un sorriso, si spegneva l'estate negli occhi tuoi. Io ti guardavo e sognavo una vita tutta con te, ma i sogni belli non si avverano mai. Era d'estate e tu eri con me. Era d'estate tanto tempo fa, e sul tuo viso lacrime chiare mi dicevano solo addio. E sognavo una vita tutta con te, ma i sogni belli non si avverano mai. Era d'estate e tu eri con me. Era d'estate tanto tempo fa, e sul tuo viso lacrime chiare mi dicevano addio, soltanto addio. Splendido brano, l'ho scelto perché comunque, non so se ci avete fatto caso, l'attacco iniziale e poi anche il refrain finale era abbastanza simile all'inizio del postino delle musiche di Bacalov, e quindi mi piaceva inserirlo, e naturalmente mi piaceva anche ricordare quest'altra colonna un po' del cantautorato, sempre genovese, e stiamo parlando di Sergio Endrigo. Sergio Endrigo, Luigi Tenco, dicevamo, personaggi che hanno caratterizzato quel periodo e che in qualche modo erano anche un po' etichettati in quel periodo, nella storia un po' musicale o degli anni 60, come un po' così lamentosi, un po' poco esuberanti, ecco, mettiamola così. E in effetti sì, in effetti è vero, in effetti era un loro modo di esprimersi, era un loro modo di cantare, era un loro modo di fare musica, e come vi dicevo di prediligere un po' il testo e cercando di intrecciarlo al meglio anche con la musicalità. Ed è un po' l'innovazione che portano, l'innovazione, se volete, intellettuale anche, ma soprattutto un'innovazione nel linguaggio musicale che portano questi nuovi autori. Sono autori che hanno segnato veramente una linea di demarcazione, e il signore che ascolterete fra qualche secondo è veramente un altro pezzo, io direi poderoso, di quelli che oggi noi chiamiamo cantautorato o cantautori, ed è un signore che porta il nome di Fabrizio De André. Thank you. accordi sbocciavamo le viole con le nostre parole. Non ci lasceremo mai, mai e poi mai. Vorrei dirti ora le stesse cose, ma come fa un presto amore ad appassire le rose? Così per noi l'amore che strappa i capelli è perduto ormai, non resta che qualche svogliata carezza e un po' di tenerezza. E quando ti troverai in mano quei fiori appassiti al sole d'un aprile ormai lontano, li rimpiangerai, ma sarà la prima che incontri per strada che tu coprirai d'oro per un bacio mai dato, per un amore nuovo. E sarà la prima che incontri per strada che tu coprirai d'oro per un bacio mai dato, per un amore nuovo. Bene, bene, puoi far andare anche l'altro, Carlo, che io sono ancora sotto shock dopo quello che mi hai fatto vedere, perché al partire del brano di André ho visto Carlo che è scattato in piedi ed è andato verso la sua libreria e mi ha tirato fuori il primo LP di De André. Ed è il disco, naturalmente, il Long Plain. Da non, ecco, questo mi dà un po' un buon assist per ricordare anche un'altra cosa. La nascita dei cantautori o del cantautorato è anche un cambio sotto il profilo del mercato discografico, perché negli anni 60 soprattutto, prima degli anni 60, si prediligeva il cosiddetto 45 giri, lato A, lato B, ma questo perché comunque era quello il brano, erano quelle, era quella la tematica, in qualche modo un brano che poi potesse diventare soprattutto ballabile, ecco, comunque era questa la caratteristica. Con i cantautori, con un gruppo di musicisti, con musicisti che prediligevano la parola, anche il racconto, la storia, quindi c'era il bisogno di svilupparla questa storia in più di un brano. De André lo fece con il bellissimo LP che aveva tirato fuori, che era stato in qualche modo che lui aveva preso da Spoon River Quindi, ma non solo lui, poi un po' tutti cominciarono a esprimersi con questi LP, quindi con più di una canzone. La durata media si allungò anche del brano, da 3 minuti e mezzo si andò oltre a 4 minuti e mezzo, e questo, come vi dicevo, rivoluzionava un po' anche il mondo discografico di quel periodo, un mondo che cominciava anche a capire che il cantautore, che questo tipo di musica unita anche alla poesia poteva essere un affare di tipo commerciale. Lottavano così come si gioca, i cuccioli del maggio era normale, loro avevano il tempo anche per la galera, ad aspettare lì fuori rimaneva la stessa rabbia, la stessa primavera. Siamo stati un po' fregati dal brano, lo giuriamo. Ha visto un re. E qui ci siamo spostati da Genova, che è stata un po' la prima mecca del cantautorato italiano, a Milano. A Milano le cose erano un po' più diverse. Enzo Iannacci, che stiamo ascoltando insieme a Cocchi e Renato, partì da un tipo di musica insieme a Giorgio Gaber, che poi ascolteremo, legato anche al teatro. Ma godiamoci questo brano, che tra parentesi vede anche l'interpretazione di Dario Fo. Ho visto un re. Sarà di scusa? Ho visto un re. Un re che piangeva seduto sulla sella, piangeva tante lacrime, ma tante che bagnava anche il cavallo. Povero re. E povero anche il cavallo. Sì, beh, ave, sì, beh, ave. E l'imperatore che gli ha portato via un bel castello, il 32 che lui cena. Povero re. E povero anche il cavallo. Sì, beh, ave, sì, beh, ave, sì, beh, ave. Ho visto un vescovo. Se la discusa, eh? Ho visto un vescovo. Ave, sì, beh, ave. Anche lui, ave, lui, sì. Piangeva, faceva un gran baccano, mordeva anche una mano. La mano di chi? La mano del sacrestano. Povero vescovo. E povero anche il sacrista. Sì, beh, ave, sì, beh, ave. E il cardinale che gli ha portato via una pazzia. Oh, poi Cristo. 32 che lui cena. Povero vescovo. E povero anche il sacrista. Sì, beh, ave, sì, beh, ave. Ho visto un ricco. Se l'hai scusa? Ho visto un ricco. Un show. Sì, ave, sì, beh, ave, sì, beh. Il tapino lacrimava su un calice di vino, ed ogni goccia andava diretta al vino, sì che tutto l'annacquava. Povero tapino. E povero anche il vino. Sì, beh, ave, sì, beh, ave, sì. Il vescovo, il re, l'imperatore l'ha mezzo rovinato, gli han portato via 3 case e un caseggiato di 32 perché lui c'era. Povertà B. E povero anche B. Sì, beh, a beh, sai, sì, sai, dai, sì, sai, sì, sai, sì, sì, sì, visto un bilancio. Sai, scusa? Un contadino! Ah, beh, sì, beh, ah, beh, sì, beh. Il vescovo, il re, il ricco, l'imperatore, perfino il cardinale, l'ha mezzo rovinato, gli han portato via la casa, il cascinale, la mucca. Ah. Il violino, sì, sì, la scatola di cacchi, i radiotransistori, sì, sì, sì, i dischi di Feltoni, la moglie, e per cos'è? Un figlio militare, ah, beh, sì, beh, gli hanno ammazzato anche il maiale, poi il purcell, nel senso del maiale, sì, beh, ah, beh, sì, ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava, ma Salema? No. Il fatto è che noi diran, noi diran, e sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco. Sì, allora dicevamo, se da una parte i genovesi Paoli e anche comunque soprattutto genovese Fabrizio De André, in questi c'era una ricerca intimista, no? E quindi il cantautorato di quella di quell'area, così come il triestino che vi abbiamo fatto ascoltare, il triestino Sergio Endrigo. Mentre quindi si partiva da questa ricerca, come vi dicevo, intimista, qui a Milano le cose si sviluppano in maniera diversa, si sviluppano attraverso soprattutto una ricerca teatrale, cabarettistica. L'avete potuto ascoltare naturalmente dalle note di questo Visto il Re, che poi è stato incluso all'interno anche di opere teatrali, e comunque stavano ed erano erano rappresentate anche in locali ben precisi, come ad esempio il Derby a Milano, è un po' una fucina veramente importante, non solo di comici e di attori, ma anche di musicisti. Un po' poi quello che accadrà a Roma con il Folk Studio, poi vedremo qualcosa. Quindi qui i milanesi hanno una matrice ben precisa, una matrice che poi si porteranno nel tempo. Io ho fatto ascoltare Enzo Iannacci, ho parlato anche di Cochi e Renato, ma lo stesso Gaber, che ascolteremo fra un po', lo stesso Gaber terrà manterrà queste caratteristiche nel corso della sua carriera, nel senso che iniziò con Iannacci per poi distaccarsene un pochettino, anzi non un pochettino, distaccarsene parecchio, perché poi Gaber si dedicò negli anni 60, alla fine tra gli anni 60 e 70, a una musica, a qualcosa di più commerciale, e poi però ritornò al teatro e ritornò alle opere teatrali, ai recital, se volete, in qualche modo, e lo fece naturalmente con grosso successo, e sempre con uno spirito, come dire, anticipatore. Gaber, a mio avviso, è uno dei maggiori autori, uno dei maggiori interpreti, forse il più completo tra tutti quelli che stiamo ascoltando stasera, e anche quello che riesce ad annusare prima l'aria culturale che cambia, che arriva, che muta nelle sue pieghe, nelle sue caratteristiche. Ecco, Gaber io credo che sia veramente un anticipatore, ma anche un castigatore dei costumi, di tutto quello che poi ci circonda e circonda l'autore stesso. Sentite ed ascoltate con attenzione che cosa diceva alla fine degli anni 70, alla fine degli anni 80, scusate, e capirete che cosa aveva intuito lui con la sua grandissima poetica. Thank you. chiomi di idioti, di guerrieri e di pazzi, anni di esercizi, anni affollati di arroganza e di stucchevole bontà, di tentativi disperati, anni affollati di qualsiasi forma di incapacità, anni affollati, per fortuna siete già passati. Ho fatto indigestione, la mia testa è piena, dall'Africa all'America al mio letto non c'è rimasto niente che non so. Io sono così pieno da neanche ricordare il giorno in cui lasciai una donna o in cui una donna mi lasciò. Anni affollati, per fortuna siete già passati. E quanti ne ho mangiati di domani e di destini. E poi gli spazi aperti, le donne solidali, erbe dopo i pasti, l'orgasmo a tutti i costi. Con l'arci non si è soli, famiglia meneghina, gli amici della Francia. A scuola imparerò a ballare, mi viene da vomitare. Anni affollati degli ultimi 10 anni, non riesco più a smaltirvi, c'è troppo poco oblio. Anni affollati di gente che ha pensato a tutto senza mai pensare a un Dio. Anni di gente informata e noiosa, mi sbiadiranno gli anni che sbiadiscono ogni cosa. Anni affollati di paure, ricatti, di impossibili guerre. Anni affollati di mani sentenziose che maltrattano le chitarre. Anni affollati di spunti divertenti che il giorno dopo diventano idiozie. Anni di terapie. Anni affollati, per fortuna siete già passati. Anni affollati, disperati, senza dignità, dimendicanti un po' arroganti e senza fisarmonica, di chi rovescia tutto e poi si arrende alla domenica. La Cina è un po' scaduta, Chan Ching l'han condannata, ma forse lo dovevano fare, mi viene da vomitare. Anni affollati degli ultimi 10 anni, non riesco più a smaltirvi, c'è troppo poco oblio. Anni affollati di gente che ha pensato a tutto senza mai pensare a un Dio. Di troppe cose non so cosa farne, per me che avrei bisogno di poche immagini ma eterne. Anni affollati, oh, anni affollati, anni affollati, per fortuna siete già passati. Anni affollati, per fortuna siete già passati. Un altro milanese che, a differenza di Gaber, che aveva come, diciamo, ispiratori Sartre, Ionesco, ma lo stesso Brecht o Borges, qui si parla ancora, si ritorna all'intimità, e lo si fa con un brano che io adoro e che vi lascio ascoltare. Indifferente il giorno che son venuto a dirti domani non ritorno, a te che immaginavi, ad ogni mia parola. La vita di mia moglie, che forse è sola, e ti sforzavi di non ricordare quell'uomo che tornava soltanto per picchiare tua madre che aspettava. Quando scappavi a letto dicendo a tua sorella: vedrai che passa tutto, la vita è bella. A te che gli anni e gli occhi si mentono ogni sera, anche se negli specchi la vita è dura. A te che mi hai ascoltato cercando di capire, uno che parla al buio e non sa cosa dire. A te che mi hai truccato il mazzo delle carte perché vincessi ancora da qualche parte. Con i tuoi forse e la tua Valentina, che in fondo è solo il nome di una bambina. A te che non c'è un solo uomo a cui non hai creduto, amando il suo dolore anche se si era addormentato. A te che nascondevi ridendo la paura che fosse solamente un'avventura. A te che mi dicevi: sai che ho scopato ieri per non farmi capire che ero nei tuoi pensieri. A te che mi hai contato i passi sulle scale e viene sempre il giorno che non si sale. A te nemmeno un sogno, nemmeno un'emozione. A te non ho lasciato che una brutta canzone. Invecchierai senza cambiare mai, perdonerai a tutti e non a te, aspetterai come tuo solito finché verrà la luna a prenderti e parlerai di me con tutti quanti. So che parlerai e che ci credo e che son l'unico, dirai, ma sbaglierai. Ho avuto parecchie remore nel interrompere questo brano, perché è un brano bellissimo. Poi un brano, è un autore, dicevo, Vecchioni, che, a cui sono particolarmente affezionato. Ho avuto anche qui la fortuna di conoscerlo, di intervistarlo. Come di intervistarlo per un giornale, tantissimi anni fa, anzi no, di intervistarlo per una radio, ecco, adesso ricordo benissimo, di intervistarlo in una radio, ed fu un incontro splendido, perché poi lui, anche qui, io credo che le persone grandi, che i grandi autori, i grandi poeti, i grandi attori, grandi, sono sempre anche grandi uomini, nel senso di umiltà, nel senso di grossa capacità di interloquire appunto con semplicità con l'altra persona, ed è stato veramente un incontro, dicevo, illuminante, perché poi alla fine lui mi portò con sé a cena dicendomi: bene, continuiamo l'intervista a cena, e si raccontò in una maniera, insieme al suo gruppo, in una maniera splendida, che io, insomma, ragazzino alle prime armi con il taccuino, la penna e il microfono, devo dire che mi ha segnato la vita. Vecchioni, panorama musicale cantautorale milanese, ma che si discosta parecchio dagli Annacci, dai Gaber e da un po' la scena musicale di cui vi parlavo prima, molto legata anche al Piccolo Teatro di Strehler e a Dario Fo. Però, insomma, anche qui personaggi che in qualche modo hanno dato un'altra impronta a tutto quello che c'era in quel periodo, a tutto quello che c'era prima, spazzando via anche cose che ormai erano completamente obsolete. Poi mettiamo Finardi, che mi intriga molto. No, dicevo, uno che trae però spunto per le sue canzoni, per le sue opere, anche dai classici. Lui, sapete, è professore, quindi è stato professore fino a qualche anno fa, poi adesso è andato in pensione, adesso si sta raccontando in bellissimi libri, e quindi traeva spunto molto anche dalla letteratura, da un certo tipo di letteratura, da certi poeti, da certe tematiche un po' più elevate, ma iniziò lui con Lucia San Siro, con questi brani qui che comunque hanno scandagliato anche moltissimo la sua intimità, la sua vita familiare. Il milanese che arriva adesso, diciamo che è un po' a metà, è un tipo che quando sfondò, lui arrivava dall'America, credo che provenisse proprio, che abitasse prima di trasferirsi a Milano, dall'America, e arrivò in Italia, portò anche lui il suo apporto alle novità, al cambiamento, e il brano che vi faccio ascoltare, se volete, un po' autocelebrativo, perché comunque stiamo qui, stiamo in radio, lui fu il primo a celebrare la forza, la potenza della radio, ma la radio libera veramente. Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, per col raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, piace anche di più perché libera la mente. Si può scrivere, leggere o cucinare, non c'è da stare immobili, seduti lì a guardare, e forse è proprio quello che me la fa preferire, è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente, e se una radio è libera, ma libera veramente, piace anche di più, perché libera la mente. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. Sei una radio libera, ma libera veramente. Mi piace anche di più perché libera la mente. Siamo ricorsi allo stacchetto perché perché la radio di Finardi ci ha tirato un brutto scherzo, ci ha fregato, ma abbiamo perso lo smalto dei vecchi DJ comunque, è vero, ma non ci frega assolutamente nulla, anche perché questa è una trasmissione che insomma vuole essere anche anch'essa un po' fuori dagli schemi e vuole essere anche un modo per passare questa oretta e mezza tuffandoci un po' in tutto quello che è stato bello negli anni precedenti, tuffandoci in quel tipo di musica che per me la cosa naturalmente è completamente opinabile, dicevo, per me hanno segnato un po' l'evoluzione musicale nel nostro paese e non naturalmente, perché poi la musica, essendo un linguaggio universale, come potete vedere, noi in queste quattro puntate di Schegge di una cosa credo ci siamo accorti, è che comunque la musica si intreccia, si contamina con una facilità incredibile, non può essere altrimenti, ma lo ha sempre fatto, perché comunque il genere umano è quello e perché determinate pulsioni sono arrivate, ci provengono da tanto lontano, da situazioni appunto che credo siano intrinseche nel nostro essere. Perché Finardi? Perché Finardi ha rappresentato un po' l'evoluzione anche di una determinata scuola milanese, come lo ha... come credo anche questo autore che vi sto per presentare, che Carlo potrebbe anche mandare sotto così possiamo cominciare a gustare le note, dicevo, anche questo autore credo abbia rappresentato una novità, un qualcosa, un tassello ulteriore a questo nuovo movimento. Come me, incontrare tanta gente divertente. E un giorno in una festa incontrò una ragazza bella come non ne aveva viste mai, mai. Ciao, come ti chiami? Disse un poco imbarazzato. Un bel gioco ho appena imparato. Mi chiamo Bambulè, non è affatto complicato, ma mi sto innamorando di te. A lei rispose: io mi chiamo Nell'Arancia, tu mi sembri un tipo che non si sbilancia. Mi piace il tuo candore, vorrei fare all'amore, ma uno specchio è incantato, il mio cuore ha rubato, la bellezza mi ha dato e in cambio mi ha intrappolato. Bambule poi ci pensò, disse: certo che ci sto, questa è la storia che ho imparato. A tre clown che ho conosciuto, in un pavone misterioso, e il suo specchio scivoloso che ti dà la fantasia, ma che poi ti porta via del suo strano indovinello e dell'amore grande e bello. Per ore di amore, psichiatria, me l'arancia, poi gli disse: è fantasia, se vuoi vedermi ancora devi andare da un pavone, ma attenzione, chi lo vede si innamora. Lui mi entra se indovinerai, l'indovinello che farà, o in cambio tu avrai la mia libertà. Lui abita lontano, ma è facile arrivarci, sta in un hotel, si chiama Arcobaleno, danza tutto il giorno e si guarda nello specchio, è sereno, tranquillo, non diventa mai vecchio, mangia solo un fiore che si chiama Narciso, in cambio ti dà il paradiso. Cavolo, poi lo cercò, poco dopo lo trovò, questa è la storia che ho imparato. A tre clown che ho conosciuto, di un pavone misterioso e il suo specchio scivoloso, che ti dà la fantasia, ma che poi ti porta via, il suo strano indovinello dell'amore grande e bello. Lavorava in un giornale colorato, da vestiti, foto, fiori circondato. Gli disse: ti regalo se lo vuoi un sogno bello, se non vuoi ecco a te l'indovinello. Cosa come il sale dà sapore, ma che dolce, più dolce del miele. A me molto facile, rispose Bambule, non sbagliò quando disse l'amore. Il pavone fu cortese, quando perse s'arrese, disse: ecco, ora l'incanto è sciolto. E Bambule sconvolto dal riso, dal pianto, felice volò dall'amore che ora aveva, dalla bella Melarancia che adesso lo attendeva. Bambule poi lo cercò, poco dopo lo trovò, questa è la storia che ho imparato, da tre clown che ho conosciuto, di un pavone misterioso, del suo specchio scivoloso, che ti dà la fantasia, ma che poi ti porta via, del suo strano indovinello, dell'amore grande e bello. Era un Alberto Camerini, ecco, perché l'ho voluto inserire in questa mia piccola epopea del cantautorato? Perché comunque, scusate, perché comunque Camerini è stato uno di quelli che nella scena musicale milanese ha dato, o comunque ha tentato, qualcosa che potesse anche qui dare un qualcosa in più all'evoluzione musicale. È stato uno dei primi anche a mischiando queste sonorità un po' particolari, ma ad accorgersi anche un po' della musica non più molto acustica, ma anche se questa tra parentesi che stiamo ascoltando in sottofondo è molto acustica, ma anche dando una buona importanza alle sonorità elettroniche che stavano iniziando ad entrare nella nostra musica, anche in quella italiana, quindi avendo anche un respiro tra virgolette molto virgolette internazionale. E quindi mi è piaciuto inserire questo cantautore, questo autore più che altro, per dare un po' una visione un po' d'insieme di tutto quello che era Milano in quel periodo. Stiamo parlando però di un periodo che va dagli anni 70 ai primi anni 80, quindi siamo partiti da Gaber, Iannacci, per poi arrivare a Vecchioni, che sono un po' i mostri sacri della scena musicale milanese, per poi passare anche per Finardi e anche per Camerini. Il prossimo che vi faccio ascoltare è anche lui un milanese doc, lo ha ribadito in un brano che è rimasto famoso, ed era il Vincenzo io ti ammazzerò, eccetera eccetera, che insomma la diceva lunga sull'opinione che avesse verso i romani, perché parlava di un produttore romano, eccetera. Sto parlando di un cantautore che è scomparso da un po' di tempo dalla scena, non ascoltiamo più, ma che nei primi anni 80 ebbe un grossissimo successo. E tocca a me, l'aria fresca soffierà, l'armatura non l'avrò. Ai settembre partirò, mentre il giorno sparisce, primavera verrà, sarà dolce e nervosa, ma non mi scapperà. Salirò sul battello e non la fuggirò, sarà volto per sempre e la bacerò, e i suoi lunghi capelli non li rivedrò più. Ai settembre lontano da lei un bacio per me, la tempesta di neve non mi sorprenderà. Ai settembre che sarà, oh, lascio tutto a te. Dille del mio amore, dille che se può, io saprò aspettare, l'accompagnerò. Oh, dentro il mio giardino, sempre la terrò, da vicino sempre sempre te te te te te te te te te te te te te te te te te te. Entra ti aspetterò, ma il nemico da sempre si cattura così. Apri bene la porta, fallo entrare da te. Lei l'ha fatto a settembre, lei l'ha fatto con me. E se nella sua testa ora sogno terrà, taglierai i miei pensieri come quando vorrà. Userai i suoi capelli e io la pettinerò, e prima che sia settembre il mio sangue darò. Oh, lascio tutto a te, dille del mio amore, dille che se può, io saprò aspettare, l'accompagnerò. Oh, dentro il mio giardino sempre la terrò, da vicino sempre se vai a vedere, vieni a vedere. Allora, questo era un altro Alberto, questa volta Fortis, anche lui proveniente dalla scena musicale milanese, è uno dei suoi successi più grandi, Settembre, poi insomma ricordo La sedia di Lillà, ricordo Milano e Vincenzo, insomma è un altro che andava per la maggiore, un altro che altro autore, un altro cantautore che ha dato il suo apporto, e un altro cantautore che ha ridisegnato anche un po' i confini della scena musicale milanese, un po' più ampia, un po' più, come dire, un po' più internazionale, anche perché comunque Milano ha sempre rappresentato qualcosa di mitteleuropeo, se volete, qualcosa che si spingeva anche oltre i confini classici italiani, ma anche per una questione di produzione. C'era la moda che in quel periodo si stava sviluppando soprattutto a Milano. Mentre che cosa succedeva un po' più a sud di Milano, anzi diciamo un po' più centro-sud? Ecco, ve lo facciamo ascoltare subito. Stelle sono tante, milioni di milioni, la luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida. Seduto o non seduto, faccio sempre la mia parte, con l'anima in riserva e il cuore che non parte. Però Giovanna io me la ricordo, ma è un ricordo che vale 10 lire e non c'è niente da capire. Mia moglie ha molti uomini, ognuno è una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce, ha un cuore da fornaio e forse mi tradisce. Però Giovanna è stata la migliore, ma è un ricordo che vale 10 lire e non c'è niente da capire. Se tu fossi di ghiaccio ed io fossi di neve, che freddo amore mio, pensaci bene a far l'amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male. Io non ti invidio niente, non ho niente di speciale. Ma se i tuoi occhi fossero ciliegie, io non ci troverei niente da dire. E non c'è niente da capire. È troppo tempo, amore, che noi giochiamo a scacchi. Mi dicono che stai vincendo e ridono da matti. Ma io non lo sapevo che era una partita. Posso dartela vinta e tenermi la mia vita. Però se un giorno tornerai da queste parti, riportami i miei occhi e il tuo fucile, e non c'è niente da capire. Erano gli anni 70 quando questo spilungone fece un album rimasto un po' nelle orecchie e anche negli occhi di molti di noi, perché c'era questa copertina particolare, cioè quella copertina, quella foto in cui tu sorridevi e non guardavi. Stiamo parlando di Rimmel, e questo invece era un brano del Principe, cioè del nostro Francesco De Gregori, che lui scrisse, lo ha ripetuto in alcune interviste, lui scrisse in risposta un po' a tutta quella serie di critiche che si erano sviluppate all'indomani appunto del delle pubblicazioni di Rimmel, in cui lui veniva appunto additato un po' come autore un po', come dire, ermetico, e lui per tutta risposta fece questo brano in cui chiaramente, in maniera anche la palissiana, diceva: guardate, non c'è nulla da capire, solamente sono mie sensazioni che io metto su carta e poi naturalmente in musica. De Gregori, quindi scena musicale romana, ci siamo spostati più a sud, soprattutto folk studio, non era molto... non era molto, cioè usava questo rispondere attraverso i brani a qualche polemica, a qualcosa. È un brano che mi ricordo lui compose come risposta alla lite che poi subentrò. Lui erano loro, De Gregori e quello che stiamo ascoltando in sottofondo, Venditti, erano amicissimi, poi i due si separarono, perché comunque l'uno accusava l'altro, soprattutto De Gregori accusava Venditti di essere venduto, di essersi venduto un po' alla commercialità, alla facile musica. E infatti compose, mi ricordo, il brano "Sono un pianista di piano bar". Il pianista di piano bar in questione era Venditti, e poi si sono riparlati dopo tantissimi anni. Io invece voglio riproporvi questo brano di Venditti, che fa parte dell'LP Sotto il segno dei pesci, se non sbaglio, no, Buona Domenica, e perché c'è un struggente Gato Barbieri al sax che, insomma, è rimasto nella storia della musica pop italiana. Tre famose facce idiote, eccoci qui. I nostri famosi sorrisi tristi, a parlarci ancora di noi. E non c'è niente da scoprire, niente da salvare, nelle nostre parole. Ricordi, libri da buttare, frasi da imputare, due bandiere dritte in faccia al sole. Ma cos'è questa nuova paura che ho? Ma cos'è questa voglia di uscire, andare via? Ma cos'è questo strano rumore di piazza lontana? Sarà forse tenerezza o un dubbio che una nuova illusione, la nostra vita è Coca-Cola fredda nella gola di un padre troppo tempo amato. Ecco, questa va ascoltata fino in fondo, perché è un delitto stoppare Gato Barbieri, il compianto Gato Barbieri, che naturalmente sassofonista jazzista di chiara fama, che Venditti prese in prestito per questo album e gli diede un grosso appeal a Buona Domenica e a questo brano in particolare. Si stava ragionando prima qui tra me e Carlo, tra Carl e Carlo, stavamo ragionando un po', stava dicendo Carlo, in effetti, ma questi dischi, questa musica qui non si ascolta tanto, o ancora non molto nelle radio o nelle stazioni più importanti, se non in quelle dedicate, appunto, tipo radio esclusivamente che mandano musica italiana. Però ecco, certi ragionamenti un po' non si fanno più in radio. E dire che in quel periodo noi avevamo, in quegli anni 70, 80, 60, 70, 80, ma poi le radio libere hanno amplificato tutto, avevamo una scuola, avevamo delle scuole, avevamo veramente un movimento, ecco, chiamiamolo così, un movimento che poteva, che come se, come sentite anche stasera, ha lasciato una traccia importante. Parlavamo della scena musicale romana in questo caso, quindi abbiamo fatto ascoltare De Gregori, poi Venditti, due personaggi che provenivano insieme ad altri dal folk studio romano. C'era anche un abruzzese, se non sbaglio, nel folk studio, ed era Locasciulli, che poi ha continuato a collaborare con De Gregori. Credo poi, tra parentesi, che Locasciulli risieda qui, nelle nostre zone, faccia il medico e di tanto in tanto da qualche fa qualche partecipazione, qualche uscita. E comunque, dicevamo, il folk studio romano è veramente una grossa fucina di talenti, talenti che poi erano quasi tutti reclutati dalla RCA, perché questa major aveva la sua, diciamo, il suo stato maggiore proprio a Roma, e lì sono passati tantissimi personaggi del cantautorato romano. E uno che ruppe gli schemi anche in questo caso, pur provenendo dal folk studio, fu Rino Gaetano. Perché dico ruppe gli schemi? Perché comunque Gaetano fu uno di quei cantautori anomali, di quegli autori anomali, perché in quel periodo, soprattutto la scena romana, ecco, era attraversata da importanti fermenti politici, e quindi la politica entrava fortemente nei testi, fortemente anche nella produzione musicale di quel periodo e di quell'area lì. Gaetano si distaccò pur facendo politica, perché poi in fondo alcuni pezzi importanti parlano anche di politica. Io penso a Non te regge più, ad esempio, però lo ha fatto con un nuovo linguaggio, con quello del disincanto, con anche un qualcosa di retro, se volete, ma anche di cabaret, ecco, linguaggio nuovo, molto variegato. Io stasera ve lo ripropongo però in un brano che a me piace molto, non è uno dei più famosi, però credo che sia uno dei più belli, quello che ascoltiamo adesso. Ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire, ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore, a mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevi con me in una stanza. Non c'erano soldi, ma tanta speranza, e a mano mi perdi e ti perdo, e quello dove sta, mi sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vera, e non come adesso, nei sabato sera. Ma dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore. Lo stesso sorriso che il vento crudele ti aveva rubato, che torna fedele, l'amore è tornato. Ma dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino, che neanche l'inverno potrà mai celare. Dicevo, Rino Gaetano, un personaggio un po' anomalo, purtroppo scomparso in modo precoce, perché io credo che Gaetano potesse dare veramente molto di più, o ancora di più, tanto di più alla musica italiana. È stato veramente una perdita importante. Dicevo, una scena musicale romana questa qui, quella di Gaetano, che poi è stata anche, questa figura è stata celebrata anche diverse volte con anche sceneggiati dalla televisione, perché come diceva un altro cantautore, gli eroi sono tutti giovani e belli e gli eroi muoiono tutti giovani e belli, e quindi sono anche facile preda del mass media, del linguaggio televisivo o cinematografico, e va bene anche così, diciamo. E anche qui però, come è successo prima, come dicevo a Milano, anche quella romana poi non è che fosse una scena musicale monolitica o comunque con il linguaggio musicale esclusivo o solo appunto in un linguaggio unico, ma c'erano diversi altri musicisti, cantautori, autori che si esprimevano in altro modo. Non neghiamoci comunque che la ricerca del successo era importante, comunque le major, le case discografiche non è che buttassero soldi così, loro volevano un riscontro economico, e quindi stiamo parlando di personaggi che hanno venduto tantissimi dischi nel periodo in cui i dischi erano veramente un grosso bene di consumo giovanile. Vi ho detto che stiamo parlando di un periodo in cui il long play prende vita, perché il long play diventa quasi, non dico un libro, ma una storia completa, una storia fatta di diversi brani e con una tematica ben precisa. E Gaetano è stato uno di quelli che, Rino Gaetano è stato uno di quelli che ha avuto un approccio nuovo, ed è stato anche un qualcuno, ecco, un musicista che anche lui ha un pochettino fatto a pezzi tutto quello che c'era prima, con la sua ironia, anche con la sua, col suo modo un po' teatrale. Io mi ricordo più volte passato in televisione la sua interpretazione al Festival di Sanremo, credo nel 76-77, quando il Festival di Sanremo era naturalmente moribondo, e questo cantare in playback così sfacciato e anche il presentarsi sulla scena con quella, con quel cilindro, insomma, anche lì rappresentò un momento di rottura in quello che in quel periodo era considerato il tempio della musica italiana. Oddio, in quel periodo no, ecco, diciamo che in quel periodo si stava già assistendo a un declino. Poi fu rianimato il Festival di Sanremo da Pippo Baudo, ma proprio il cantautorato, la nascita dei cantautori, la nascita di questo movimento musicale nuovo che rifuggiva anche da una serie di riti, avevano messo in ginocchio il festival della musica, della canzone italiana. Così come in quel periodo furono messi in crisi anche, in quel periodo storico ben preciso, furono messi in crisi anche i concerti. Qui parliamo appunto della politicizzazione, anche io mi ricordo, insomma, potete verificare, ma è interessante da raccontare il fatto che De Gregori si ritirò dalle scene, così come molti musicisti italiani, quindi non fece più concerti fino ai primi anni 80, perché fu contestato duramente dagli autonomi e c'erano, insomma, pestaggi, c'erano risse ai concerti, tant'è che tantissimi i musicisti italiani e stranieri chiusero i battenti, e se ne riparlò anni dopo. In particolare c'è una data ben precisa, c'è un concerto, un tour ben preciso che riavviò questo riascoltare insieme a tanti altri un concerto, e fu, se non ricordo male, Banana Republic di De Gregori e Dalla. Altri due musicisti, non proprio all'interno degli schemi cantautorali, ma che comunque segnarono quegli anni lì, e adesso ne ascoltiamo uno che è nato a Saigon, ma anche lui di origini, tu non lo sapevi, abruzzese. Lo sapevi? Sia, poi li incontri per caso fra le mani di un bimbo, perché lui cammina cantando, ride e gioca coi sassi, sogna che può volare, e tutto questo è poesia. Poesia, poesia, sembra che non ci sia, poi ti prende la mano e ti porta lontano con lei, e non sei più il bambino che giocava coi sassi, scopri di essere un uomo, e tutto questo è poesia. Thank you. sembra che non ci sia. Poi la senti una notte, mentre piange nel buio per te. Le dovresti parlare, ma non sai cosa dire. È finito l'amore, anche questo è poesia. Ma questa vita è... Riccardo Cocciante è il, forse un po' più conosciuto per Bella Senz'animo, ma questa poesia fa parte del suo primo album, del suo album d'esordio. E dicevo, di origini, lui nato a Saigon, ma il padre è ingegnere di origine abruzzese, quindi c'è anche un po' di qualcosa di nostro. Stavo raccontando a Carlo un episodio che io ero bambino e insomma conobbi il Riccardo Cocciante, ma non perché fosse famoso, in un'occasione particolare, insomma, a Pescara, e mi ricordo che era bassissimo, che io ero un ragazzino e lui era alto come me. Ma a parte queste cose qui, insomma, ritorniamo un po' a noi, ritorniamo un po' a un altro personaggio che insomma romano, che andava per la maggiore. Non rientra, dicevo, nei canoni cantautorali, però comunque credo che sia stato e sia anche tuttora, perché insomma credo che sia il prossimo direttore artistico di Sanremo, insomma, anche se lui non ha voluto andare mai a Sanremo quando era sulla breccia. E dicevo, parlo di Claudio Baglioni. Claudio Baglioni ha rappresentato un momento importante per un po' tutta la scena musicale italiana, e il suo modo di porgersi, anche le sue storie così semplici, le sue magliette fine, no? E hanno incantato e hanno rapito il pubblico italiano per diverse generazioni, quindi mi sembra giusto che entri in questa hit parade, come la chiamo io, ideale, che abbiamo fatto questa sera, che stiamo per concludere e la concluderemo fra qualche minuto. Intanto io vi mando questo brano che credo che sia il più cantautorale di Baglioni, un affresco vero e proprio di una semplicità unica, ma che rimane nelle orecchie e nella mente di chi lo ascolta. Seduto con le mani in mano sopra una panchina fredda del metrò, sei lì che aspetti quello delle 7:30 chiuso dentro il tuo paltò. Un tizio legge attento le istruzioni sul distributore del caffè ed un bambino che si tuffa dentro ad un bignè. Cancellato dall'umidità, un poster che qualcuno già scarabocchiato dice vieni in Tunisia, c'è un mare di velluto ed una palma e tu che sogni di fuggire. una radiolina accesa arrivano le note di un'orchestra jazz. Un vecchio con gli occhiali spessi, un dito cerca la risoluzione a un quiz. Due donne stanno parlando con le braccia piene di sacchetti del lupino ed un giornale aperto sulla pagina dei films. Quanta vita che è passata e quanta che ne passerà. Quei due ragazzi stretti stretti che si fan promesse per l'eternità. Un uomo si lamenta ad alta voce del governo e della polizia. E tu che intanto sogni ancora, sogni sempre, sogni di fuggire via. Stavo riflettendo e ricordo che all'epoca ero uno di quelli che nella radio aveva un ruolo un po' più, diciamo, come dire, meno commerciale, ecco, e mi ricordo che si discuteva spesso su questi autori qui o su questi cantanti qui, no, come Baglioni Però poi alla fine uno deve ammettere, deve comprendere che la musica, quando è bella, ben fatta, è onesta, è bella e basta, e si ascolta. E quindi questo brano di Baglioni ci ho messo tempo, ma poi l'ho metabolizzato, così come ho metabolizzato altri autori nel tempo, così come ho capito che non bisognava essere in qualche modo culturalmente razzisti o troppo di parte. La musica esiste musica bella, musica meno bella. Io credo che questo sia stato un problema di moltissime persone che negli anni 70-80, soprattutto alla fine degli anni 70, ascoltavano musica e si occupavano di musica. Ecco, questo essere o da una parte o dall'altra ci ha segnato, ma era un po' tutta la società divisa a metà, era una società che subiva pesantemente gli anni di piombo. Io sto parlando della società italiana, ma anche della società europea in generale, perché lo stessi fenomeni accadevano in Germania o in Francia, e comunque eravamo ancora circondati da dittature ad est, da dittature a ovest come quella spagnola. Insomma, era un mondo completamente diverso, e quindi era un mondo in cui ci si doveva schierare, e questo accadeva anche nel campo musicale. E tanto poi, con il passare degli anni, tanti di noi si sono dovuti ricredere, hanno riascoltato cose che ho ascoltato addirittura cose che non avevano mai ascoltato e poi hanno dovuto ammettere, io sono uno di quelli, che determinati autori, determinate scie musicali sono apprezzabilissime. È successo anche con il prossimo brano e il brano con cui concluderemo questa serata. Non concluderemo il discorso inerente al cantautorato perché c'è ancora molto da dire, c'è ad esempio l'analisi un po' della scuola bolognese e poi anche di quella napoletana, e quindi sarà un po' l'argomento della prossima scheggia impazzita di Radio Cerrano Web, che è arrivato ormai abbiamo sforato stasera, ma non c'è problema, sono le 22:41 minuti, siamo in diretta da Radio Cerrano Web, il nostro segnale non è più segnale, come posso dire, il nostro flusso è rimandato anche da Radio AtriWeb. Ci potete trovare su alcune piattaforme importanti come Facebook oppure TuneIn oppure radio.net, Listen to My Radio, Radio Garden, se volete questo programma lo potrete riascoltare sul nostro, sempre in radio, ma anche sul podcast, attraverso i nostri podcast su archive.net, sì, ecco, si dice .org, si dice così, è una piattaforma libera anche questa, andate lì, cliccate e troverete di tutto. Quindi dicevo, un altro in questo caso un binomio un po' tartassato anche, si parlava di un binomio che avesse connotazioni di destra e quindi venivano un po', sono stati marchiati, sto parlando di Mogol e Battisti. Mogol e Battisti io credo che sia una coppia anche qui rivoluzionaria, perché hanno immesso una musica e dei testi che hanno cambiato volto alla musica italiana, non per questo insomma li ricordiamo ancora adesso. Anche qui c'è da dire una piccola parte di Abruzzo, perché Mogol per tantissimi anni, soprattutto negli anni adolescenziali, veniva qui al mare a pochi chilometri da noi, a Silvi, e lo è stato per tantissimi anni. Io l'ho scoperto sempre attraverso un'intervista che gli feci all'epoca, perché scoprimmo in un festival di Sanremo, lui presentò una canzone, si chiamava La Via degli Oleandri, e in una sua intervista raccontò che questa Via degli Oleandri era la via che lui quotidianamente con la bicicletta insieme ad amici silvaroli percorreva dalla Marina verso Santo Stefano di Silvi, ed era costellata di oleandri appunto, e quindi subito noi qui insomma operatori dell'informazione ci mettemmo alla ricerca. Io fui fortunato per riuscire a beccare il numero di telefono di Mogol, che mi raccontò questi suoi ricordi adolescenziali, dicendomi che la canzone del sole aveva preso spunto da storie qui della nostra zona, che appunto la ragazza, l'acqua azzurra e acqua chiara, era quella di Silvi, tant'è che poi insomma lui è stato insignito della cittadinanza onoraria di Silvi. È bene ricordare tutte queste cose, perché vedete, certe volte le vite dei grandi o anche delle persone note si intrecciano con storie comuni, forse questo è il bello. Io vi faccio ascoltare questo brano e poi concludo, per i saluti ci sentiamo fra qualche minuto. Dicevo che è un po' il brano con cui Battisti iniziò la intensa collaborazione con Mogol. Seduto in quel caffè io non pensavo a te, guardavo il mondo che girava intorno a me. Poi d'improvviso lei sorrise e andò. ancora prima di capire. Mi trovai sotto braccio lei, stretto come se non ci fosse che lei. Vedevo solo lei e non pensavo a te. E tutta la città correva incontro a noi. Il buio ci trovò vicini, un ristorante poi di corsa a ballare sotto braccio lei, stretto verso casa, abbracciata lei, quasi come se non ci fosse che, quasi come se non ci fosse che. Mi sono svegliato e sto pensando a te. Ricordo solo che ieri non eri con me. Il sole ha cancellato tutto, di colpo volo giù dal letto e corro lì al telefono, parlo, rido e tutto, non sai perché, t'amo, t'amo e tutto, non sai perché, parlo, rido e tutto, non sai perché, t'amo, t'amo e tutto, non sai perché. La novità di questo binomio sta nel, credo sia nel testo, ecco, questo 29 settembre, nella versione, tra parentesi, nella versione dell'Equipe 84 era inserito anche la voce di un radiocronista che parlava oggi, 29 settembre, e credo che, ecco, ne stiamo parlando con Carlo qui vicino a me, e la novità di questo binomio sta nell'aver... più che composto canzoni, secondo me composto dei video, degli affreschi ante litteram, nel senso dei video ante litteram, scusate, con affreschi ben precisi. E questo era il racconto di una semplice giornata di un uomo che vede un'altra donna e poi pensa comunque che è innamorato dell'altra, insomma, di un qualcosa di semplice che però nella sua evoluzione, nell'evoluzione sia musicale che nell'evoluzione anche testuale del brano, è sicuramente innovativo. Anche questo scindere, uno vede scorrere, ascoltando un brano appunto di Mogol e Battisti, vede scorrere di fronte a sé, di fronte ai suoi occhi, un vero e piccolo video, un cortometraggio, perché ecco, questi brani diventano piccoli, dei piccoli cortometraggi in musica. E peccato che il binomio si sia interrotto in malo modo proprio in questi giorni, c'è questa grossissima lite per quanto riguarda i diritti tra Mogol e la famiglia di Battisti, che ha dato luogo, con molta probabilità darà luogo alla vendita dei diritti a una grossa major da parte della casa di una società che qui era la moglie e il figlio di Battisti, che sono costretti probabilmente a vendere i diritti a grosse major perché devono pagare i debiti che hanno contratto, anzi i soldi non dati a Mogol. Ma questa è un'altra storia, questa naturalmente è vita. Allora, io voglio salutarvi e anticiparvi che nella prossima puntata di Schegge Impazzite continueremo questo racconto ci trasferiremo nel bolognese con cantautori insomma noti, e anche nel napoletano. Anche qui sta staffetta, c'è nord-sud, due centri, due poli musicali importantissimi, che poi insomma cercheremo di sviscerare, cercherò di sviscerare insieme a voi, sperando di fare cosa gradita. Bene, allora, noi vi diamo la buonanotte, che dici Carlo? Sì, a sto punto la buonanotte. Vi ricordo che noi siamo in replica nelle prossime giornate, e ormai siamo arrivati alle 22:50 minuti. Radio Cerrano Web e Radio Atri Web vi danno la buonanotte. Carlo e Carl Bartelboom vi salutano. Se volete potete riascoltarci tramite i nostri podcast accedendo all'archive. Questa cosa mi fa all'archive. Allora, chi vogliamo salutare? Intanto salutiamo magari Elio, che forse sarà nostro ospite nelle prossime puntate, un autore. Salutiamo Vincent Butterfly, anche lui lo aspettiamo qui, ma mi ha detto che ci sarà, e con lui parleremo di soul, perché lui è un grossissimo estimatore, nonché inventore di un famosissimo festival soul regionale e non, nazionale e internazionale. Quindi insomma, ecco, ci stiamo dando da fare. Se a voi vengono delle idee potete anche farcele presente, noi siamo aperti a tutto, è vero? Bene, Carlo, ma almeno un saluto, un buonanotte, no, niente. Ok, allora buonanotte a tutti e buona vita naturalmente.